stampa dell'Etna, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Il mare inghiotte altre vite in fuga. Immigrazione, ennesima tragedia nel canale di Sicilia, avvistate decine di corpi al largo di Malta. E Marian, appena 14 anni, muore tra le fiamme nel rifugio dei Rom di Sesto San Giovanni. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Io vi leggo questa notizia, che ve la leggo sulla prima pagina dell'Avvenire, anche perché solo l'Avvenire dà uno spazio così ampio a questa notizia di oggi. Altri giornali hanno dei richiami in prima pagina, ma è il quotidiano cattolico L'Avvenire che dedica l'apertura di prima pagina e un ampio servizio alla tragedia, all'ennesima tragedia del mare. Andiamo a vedere: tragico naufragio a Malta, decine di morti, nessun corpo è stato recuperato per via del maltempo. Un giornale locale parla di 35 vittime. Le cifre: secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti che quest'anno hanno provato a raggiungere l'isola sono stati 2.289 contro i 1.379 del 2007. A Lampedusa intanto sono stati soccorsi in 365 e la vice sindaco Angela Maraventano attacca Gheddafi: non rispetta gli accordi, dal 3 settembre a oggi sono sbarcati 1.150 clandestini. E Laura Malandrino, che firma questo servizio ampio sul dramma in alto mare. 6, 8, forse 10 morti. Sarebbe questo il bilancio dell'ultimo naufragio al largo dell'isola di Malta. Pare avvenuto tra venerdì e sabato scorso, dopo che il natante a bordo del quale viaggiavano era stato avvistato da un elicottero tedesco di stanza a Malta, nell'ambito della missione dell'Unione Europea Frontex. A denunciare il ritrovamento delle vittime sono stati ieri le autorità maltesi. Dopo l'avvistamento da parte dell'elicottero, nonostante il mare grosso e venti forti, la macchina dei soccorsi era stata messa subito in moto. Un aereo militare e una motovedetta della Marina maltese hanno condotto una ricerca nella zona indicata a circa 30 miglia dalla costa, ma il barcone non è stato intercettato. E l'allarme, qui leggiamo sempre sul primo piano del quotidiano Avvenire, ripeto, unico quotidiano che dà uno spazio evidente, l'apertura di prima pagina. Gli altri quotidiani aprono su altre notizie e al massimo alcuni di questi richiamano in prima pagina la notizia. Marchetto su rifugiati ricongiungimenti, tendenza al ribasso, impegni dimenticati. Siamo sempre più lontani, non solo nel tempo, dallo spirito della lettera di quei diritti umani che trovarono possibilità di essere espressi perché si proveniva forse dagli orrori di una guerra mondiale. È il giudizio critico di Monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, nei confronti dell'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dei decreti legislativi in materia di riconoscimento e revoca della qualifica di rifugiato e di diritto al ricongiungimento familiare. Purtroppo, ha dichiarato Monsignor Marchetto alla Radio Vaticana, la tendenza è a ribasso rispetto agli impegni internazionali a suo tempo assunti in favore della protezione di persone perseguitate e in cui i diritti umani non sono stati rispettati. Mi pare che l'ultima seduta del Consiglio dei Ministri va in questa stessa tendenza a ribasso. Le decisioni avrebbero potuto essere peggiori, stando al giudizio dell'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati. Vi è per questo motivo per rallegrarsi? Non direi proprio. Questo dice Monsignor Marchetto a proposito della questione delle leggi per la protezione dei rifugiati politici. Ecco, questo il quotidiano Avvenire. Ora torniamo invece con altri quotidiani alle notizie, alle cose più grosse del giorno. Intanto avete sentito tutti dai GR e le notizie su Alitalia, tutti i quotidiani titolano Alitalia accordo vicino, a un passo dall'accordo e così via dicendo. Ecco, anche il quotidiano Il Corriere della Sera titola Alitalia l'accordo è vicino, CGL pronta a firmare, torna Air France interessata. E la vicenda d'Italia potrebbe essere vicina alla soluzione. Oggi i sindacati e la CAI sono già convocati dal governo. CGIL è pronta a firmare, Air France interessata. Ecco il sommario del Corriere della Sera. Ma io volevo, tornando poi, anche perché dovremmo avere poi a questo punto notizie fresche su come si evolve la vicenda, la lunga e interminabile vicenda d'Italia. Io però voglio invece stare sul Corriere della Sera per segnalarvi una notizia che c'è su molti quotidiani, che viene dalla Sicilia ancora. Biglietti ricatti, così i mafiosi condizionavano il Palermo. Sì, Giovanni Bianconi che firma questo servizio. Affari per la mafia, arrestato l'avvocato del boss Lo Piccolo. Filmato mentre scrive pizzini al figlio. L'accusa è di essere prestanome per un investimento edilizio di 8 milioni a Chioggia, quindi secondo questo servizio e secondo altri servizi l'infiltrazione della mafia è ormai fuori dallo stesso territorio siciliano. Palermo, vediamo cosa scrive Bianconi. Ufficialmente era l'avvocato difensore della famiglia Lo Piccolo, il capo mafia Salvatore, i figli Sandro e Calogio, tutti in carcere, ma per il giudice che ieri l'ha fatto arrestare era un affiliato a Cosa Nostra, per la quale svolgeva i compiti elencati nel lungo capo di imputazione, che comprende tra l'altro l'accusa di aver fatto da loro prestanome per ingenti investimenti di capitali di origine illecita in un progetto edilizio a Chioggia. Un affare da 8 milioni di euro, aver procurato poi un giubbotto antiproiettile a Calogero Lo Piccolo che temeva per la sua incolumità, essersi interessato insieme a Giovanni Pecoraro, arrestato anche lui ieri per concorso in un'associazione mafiosa, per far andare a buon fine alcune estorsioni dei Lo Piccolo nel settore degli appalti legati alla città Palermo Calcio. Eh sì, ed è questo il punto. È proprio qui che si parla di infiltrazioni, e infatti molti giornali, alcuni quotidiani spiegano, per esempio La Repubblica: i mafiosi siciliani entravano gratuitamente allo stadio, ad ogni partita del Palermo 100 biglietti venivano infatti ceduti ai capi di Cosa Nostra, incredibile davvero, che li distribuivano ai boss. L'infiltrazione di cui è stata vittima la società sportiva emerge dall'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di uno degli avvocati dei Lo Piccolo in un procuratore di giocatori. Insomma, il parterre più importante dello stadio di Palermo, secondo queste ricostruzioni, era occupato dai mafiosi siciliani, i boss, che ricevevano gratis dei biglietti. Ecco, questo mi pare. Il ciclone Mutui irrompe nella lotta per la Casa Bianca e rischia di travolgere McCain. Questo, intanto, un saluto di nuovo da Bruno Perini, dagli studi di Radio 24, per la nostra rassegna stampa. Questa è la chiave di lettura del quotidiano La Stampa di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti nella lotta per la conquista della Casa Bianca. Scrive La Stampa: il candidato repubblicano, indietro di 9 punti nei sondaggi, sospende la campagna elettorale per tornare a Washington e lavorare a un provvedimento per affrontare la congiuntura economica. McCain chiede di annullare il primo confronto televisivo con il candidato democratico, ma Obama rifiuta e chiede agli avversari di studiare una proposta congiunta per affrontare l'emergenza finanziaria. Intanto l'FBI arriva a Wall Street e indaga sui crolli di Freddie, Fannie, Lehman e AIG. L'FBI, scrive ancora il quotidiano torinese diretto da Giulio Anselmi, vuole in carcere i capi del grande crack, Faro su AIG, Fannie e Freddie, Lehman e Countrywide Financial. Maurizio Molinari che scrive: manette in arrivo per i manager di Wall Street che hanno guadagnato milioni di dollari frodando azionisti e correntisti. L'FBI di Robert Mueller ha aperto 26 filoni d'inchiesta. Gli agenti messi in campo sono centinaia. Nel mirino c'è anzitutto la Banda dei Quattro, i cui giochi pericolosi con i mutui subprime hanno mandato in fumo decine di migliaia di posti di lavoro e stanno facendo affondare i mercati finanziari. C'è anche una analisi invece di Francesco Manacorda sull'Italia: è inesistente la certezza del diritto e nel bel paese dove non si resta dentro. E la stampa, voglio segnalarlo anche per un'altra questione, Luca Ricolfi, editorialista in genere critico nei confronti del governo, in questo caso difende e smentisce alcune cifre negative della riforma della scuola del ministro Gelmini. Dice sì, io sono in disaccordo con una serie di cose, ma il mio stupore nasce da due ragioni distinte. La prima è che andando a controllare le cifre si scopre che la maggior parte dei numeri spaventa famiglie che sono stati agitati, sono semplicemente falsi. Non è vero che il bilancio della scuola subirà tagli per 8 miliardi. Il taglio del prossimo anno sarà inferiore a 0,5 miliardi, 1% del budget. I tagli netti previsti per il triennio 2009-2011 sono pari a 3,6 miliardi spalmati su 3 anni. Non è vero che saranno licenziati 87 mila insegnanti. La riduzione del numero di cattedre avverrà limitando le nuove assunzioni. Le cifre di 87 mila insegnanti in meno si raggiungerà nel 2012 e include nel calcolo le riduzioni già pianificate da Prodi, circa 20.000 unità, a suo tempo giudicate insufficienti nel quaderno bianco sulla scuola pubblicato giusto un anno fa dal precedente governo. Non è vero che nelle scuole elementari sparerà il tempo pieno e tutti i bambini dovranno tornare a casa alle 12.30. L'introduzione del maestro unico, con conseguente soppressione delle ore di compresenza, libererà un numero di ore più che sufficiente ad aumentare le ore di tempo pieno, eventualmente richieste dalle famiglie. Ecco, non si vede su quali basi l'opposizione agiti lo spettro di una riduzione degli insegnanti di sostegno o della chiusura delle scuole di montagna, nessuna norma lo prevede. E, insomma, ecco, è molto polemico Luca Ricolfi nei confronti di chi agita queste cifre da parte dell'opposizione soprattutto, dice non sono vere, su questo probabilmente si aprirà una nuova polemica. Allora voglio anche segnalarvi Letizia Moratti che scrive alla stampa perché multo chi fuma e chi è interessato all'argomento lo vada a leggere sul quotidiano La Stampa. Ora La Repubblica lancia un'altra notizia politica che creerà altre polemiche, perché è il tema sempre bollente in Italia della giustizia. Vediamo cosa scrive La Repubblica. Il PDL torni l'immunità anche per i ministri. Nuovo blitz del centrodestra sulla giustizia. Il parlamentare Giuseppe Consolo, che viene da AN, ha infatti presentato un progetto di legge che prevede l'immunità anche per i ministri, che diventerebbero processabili solo dopo la concessione di un'autorizzazione a procedere. A giovarsi della nuova norma sarebbe soprattutto il ministro dei trasporti Altero Matteoli, sotto inchiesta a Livorno per favoreggiamento. I ministri sono attualmente immuni solo dai reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e non per i reati comuni. Eliana Milella, che si occupa di questa questione e scrive... A proposito giustizia, di nuovo un lodo Alfano per il premier Silvio Berlusconi per bloccare i suoi processi Mills e Medusa. Quello è già fatto, è alle spalle. Adesso serve un lodo Consolo per il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, scrive Eliana Minella sulla Repubblica, di cui Consolo è pure avvocato. Il ministro Aennino, il proponente, tutto in famiglia, come è stato per il lodo Alfano, uno scudo protettivo per fermare i processi alle alte cariche dello Stato, fresco di pochi mesi. Un disegno di legge pensato e scritto dal deputato Giuseppe Consolo, affidato alla cura del capogruppo di Forza Italia Enrico Costa. E questo sarebbe, insomma, la nuova ombra che potrebbe far riaccendere lo scontro tra maggioranza e opposizione sul tema della giustizia. Ora, io volevo invece andare al Giornale, perché il Giornale affida a Vittorio Macioce un commento sulla notizia della candidatura del film Gomorra a Hollywood. E il tema è, le parole che usa Vittorio Macioce sono molto forti, e dice: se la camorra va a Hollywood, non nascondiamoci. Il male non è dietro lo schermo, non è l'ombra di questa città biblica che cade su Hollywood, non c'è scandalo. Gomorra può valere un Oscar. Questa è una sporca fetta d'Italia e il mondo la guarderà chiedendosi se è tutto vero. La cancrena, gli adolescenti con il mitra che sparano sull'acqua, le mani sporche sulla moda, i veleni industriali seppelliti nelle cave, la monnezza che vomita soldi. E noi diremo di sì. Signore e signori, buonasera. Tutto questo è vero. Sono veri quei volti senza speranza con gli occhi bambini che sprofondano nei formicai di Scampia. Sono veri gli zombie cavia dell'ultima dose di coca nelle vene. È vero che a Napoli regna la camorra. È vero che qui Sandokan non è l'eroe di Salgari, ma un boss dei casalesi. È vera la violenza, l'arroganza, le falde, la legge del clan che calpesta la legge degli uomini. È vero che gli uomini di Gomorra sono i padroni di una multinazionale che ricicla tutto, anche il sangue. È vero che l'Italia non è ancora unita e 500 militari non bastano per sognare un nuovo risorgimento. È vera la guerra tra bande e la guerra civile. Non facciamo finta, quelle facce non ci sono aliene. Quelli lì, quelli di Gomorra, sono italiani e non hanno neppure bisogno del permesso di soggiorno, perché in questa terra di scarafoni ci nascono e prolificano senza pietà. Non c'è trucco, vivere in campagna è davvero uno schifo. Quindi parole davvero durissime di Vittorio Macioce a proposito di questa notizia che abbiamo sentito anche da GR. E ora andiamo a Hollywood con il film di Garrone, le parole di Saviano, e urliamoli al mondo. Il male non è dietro lo schermo, è qui, in questo pezzo d'Italia che è peggio di un tumore, sta lì sul nostro suolo e nelle teste e cresce. È il male, il all'assoluto, irriducibile. Gomorra è una guerra ancora tutta da fare, non è un non luogo, non è una città metafisica, ma una realtà da spazzare via come la monnezza. Vai giù e pulisci. Sandokan è chiuso in una cella, dovrà sentire il gelo di chi è senza speranza e tremare, e con lui uno a uno tutti gli uomini della camorra, senza tregua. Fate che a Hollywood torni un grido, delenda Gomorra, che venga distrutta e poi si butti il sale. Questo scrive Il Giornale, scrive Vittorio Macioce nell'editoriale di Prima Pagina a proposito di Gomorra candidata all'Oscar. Il Riformista invece si occupa della vicenda della polemica tra Maroni e La Russa a proposito proprio di come interpretare l'ultimo assalto della camorra. E mi par di capire che il Riformista pende dalla parte di La Russa. Adesso vediamo. Fermate Maroni. Il ministro dichiara la guerra civile in campagna, perfino La Russa si scandalizza. Gomorra candidato all'Oscar. Made in Gomorra, terra di morte e sangue, ci piaccia o no, è il marchio che sta diventando il nostro biglietto da visita e che rappresenterà l'Italia alla notte degli Oscar. Una nomination giunta con tempi cinematografici perfetti. Pochi giorni dopo la strage di Castelvolturno, 6 neri più un bianco uccisi dai casalesi al chilometro 43 della Domiziana, e poche ore prima che nel governo scoppiasse l'ennesima lite tra Lega e Alleanza Nazionale. Proprio su Gomorra, da una parte il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che in un'audizione al Senato definisce improvvidamente, ecco perché dicevo che il Riformista sta dalla parte della Russa, improvvidamente quella casertana una guerra civile, come se lo Stato non ci fosse, o peggio, come se fosse rappresentato da una delle due fazioni in campo. E dall'altra il ministro della Difesa Ignazio La Russa, che lo corregge in tempo reale. Più che una guerra civile, ribatte Ignazio La Russa, io parlerei di guerra per bande, altrimenti mi sembrerebbe di dare una patente, non dico di legittimità, ma di importanza extracriminale alla camorra. Un botta e risposta che suscita l'ira di Maroni, che alza il telefono e chiama direttamente il capo. Non è la prima volta che accade, dice il ministro a Berlusconi, e sta diventando un problema politico. Non solo nel caso specifico di dichiarazioni come quelle di La Russa rischiano di minare l'efficacia dell'azione contro la criminalità organizzata. Ecco, quindi è diventato immediatamente un problema politico quello della polemica tra La Russa e Maroni su come interpretare l'ultima strage della camorra. Bush, il piano o la catastrofe? Così il Sole 24 Ore a pagina 3 a proposito della crisi del credito. Messaggio alla Nazione per sollecitare il via libero al pacchetto salva banche. È Marco Valsania che scrive da New York. George Bush, volto teso e preoccupato, si è rivolto ieri notte direttamente agli americani per fare i conti con una crisi che è sempre più grave e difendere il colossale piano di salvataggio dell'alta finanza da 700 miliardi di dollari. L'ha fatto con un sobrio discorso alla nazione, una quindicina di minuti in tutto nell'orario di punta degli ascolti televisivi, alle 9 di sera. Una scelta in passato riservata a guerre o disastri naturali. E però sul Sole 24 Ore c'è anche una intervista che viene fatta da Mario Margiocco a un economista e storico del dollaro, Barry H. Green, che dice: così com'è non può passare il piano. Il piano Paulson per il salvataggio della finanza americana così non funziona. Ma un piano è urgente e deve essere pronto domenica, prima di sera, altrimenti i mercati possono davvero impazzire. Questo dice. E a proposito degli effetti del ciclone americano sui mercati italiani, leggiamo invece, sempre dal Sole 24 Ore, Rossella Bocciarelli, che scrive e quindi tranquillizza in qualche modo anche i risparmiatori italiani e gli operatori finanziari. Dopo il fallimento della Lehman Brothers, le conseguenze sul sistema bancario sono nel complesso contenute, e l'analisi del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria, secondo cui anche per il settore assicurativo i rischi sono molto limitati. Secondo un'indagine compiuta dalla Banca d'Italia, spiega infatti il comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia al termine della riunione di ieri, l'esposizione dei primi 20 gruppi italiani si ragguaglia allo 0,5% del loro patrimonio di vigilanza, valore significativamente inferiore alla media europea, come abbiamo infatti sempre sostenuto, questo diciamo noi anche nei commenti, riportando commenti, la situazione italiana è migliore di altre situazioni anche europee, proprio a causa del fatto che le banche italiane sono da sempre meno esposte, per esempio, del sistema bancario anglosassone. Ecco, questo il Sole 24 Ore, che apre invece la prima pagina con il titolo che hanno anche altri quotidiani: all'Italia soluzione vicina. E Franco Locatelli che scrive: è giusto trattare ma senza cedimenti. Questo il Sole 24 Ore, vi dicevo. Ora il quotidiano dunque volevo segnalarvi, prima del quotidiano Libero, il suo côté, diciamo così, economico, cioè Libero Mercato, il suo quotidiano economico, che titola: la crisi non passa, banche contro il ritorno dello Stato, gli istituti dicono no a garanzie pubbliche come Fannie e Freddie in USA, la politica resti fuori, cifre shock dal Fondo Monetario Internazionale. Perdite, guardate la cifra, è impressionante davvero, per 1.300 miliardi di dollari, metà del prodotto interno lordo italiano. Ok di Buffett al piano Paulson. Invece qui arriva un ok dal piano da Buffett, uno dei uomini più ricchi del mondo, del pianeta. Libero invece si occupa ancora della vicenda Rom, con Gianluigi Paragone, vice direttore, che firma un pezzo, un commento dal titolo: 9.000 euro per ogni Rom. Il comune di Roma spende milioni per mandare a scuola i bambini nei campi nomadi, ma pochi entrano in classe, quasi tutti disertano le lezioni. Inchiesta di Vespa. A dire le cose per quel che sono, si corre il rischio, scrive Paragone, di passare per cattivi o peggio per razzisti. Con i Rom, per esempio, si è compiuto il capolavoro della retorica. Ricapitoliamo a spanne: con l'omicidio della signora Reggiani in un quartiere periferico di Roma per mano di un balordo romeno, la politica apre gli occhi sulla condizione dei campi nomadi. I cittadini lo avevano già fatto da tempo. Davanti agli occhi si apre uno scenario spesso di squallore e di pessime condizioni igienico-sanitarie. Si vota, finisce come noto: il centrodestra vince, il centrosinistra perde, la sinistra crolla. Vabbè, qui la prende alla lontana, per dire che cosa? Che alla fine si fanno provvedimenti per mandare i bambini Rom a scuola e che invece questi a scuola non ci vanno. Questo dice sostanzialmente Libero. Dice: ci si mettono pure nelle polemiche Famiglia Cristiana e L'Opera Nomadi, per i quali i bambini sono vittime del pregiudizio. Qualcuno arriva a dire che se i bambini nomadi non andranno più a scuola è per colpa di questo clima. Ed eccoci al dunque: in attesa di sapere cosa accadrà negli anni del centrodestra al governo sotto il profilo dell'integrazione, sappiamo con certezza che cosa è accaduto negli anni del centro-sinistra, solo chiacchiere, e questa è la polemica che viene, avanzata dal quotidiano Libero, e poi ecco Libero poi come altri quotidiani ritraggono la Margherita Granbassi, medaglia d'oro nel fioretto alle Olimpiadi di Pechino, che da carabiniera a Valletta di Santoro. Sì, questa è la notizia un po' del giorno, il gossip del giorno, diciamo, beh, in fondo un soldato della Benemerita ci può star bene in quella trasmissione televisiva, fosse solo per contenere il teppismo mediatico e le improvvise sassaiole contro le vetrine della pubblica informazione. Questo è il durissimo giudizio di Luigi Sant'Ambrogio a proposito della scelta di Michele Santoro di scegliersi come valletta questa bellissima donna, Margherita Granbassi, e oltre medaglia d'oro nel fioretto alle Olimpiadi di Pechino. E, dunque, io volevo, sì, ecco, volevo segnalarvi che il Manifesto, il quotidiano Il Manifesto, che ha lanciato ieri un allarme perché rischia di chiudere proprio perché gli ultimi provvedimenti in materia di editoria e di finanziamento dell'editoria lo strangolerebbero, continuano la sua campagna per sopravvivere. È iniziata la nostra campagna d'autunno per salvare il giornale dai tagli della finanziaria e difendere la libertà di informazione. Prime adesioni e sottoscrizioni da Veltroni a Monicelli, da Anna Finocchiaro a Rinaldini, ma a mobilitarci sono soprattutto i nostri lettori. Giorgio Bocca dice: sento puzza di stampa di regime. Ed è, c'è un poi vabbè, il titolo è manifestatevi, cioè fatevi sentire, insomma. E poi c'è invece un Valentino Parlato, che è uno dei fondatori del Manifesto, che dice: stringiamoci le mani, nel senso andiamo avanti e affrontiamo la cosa. Un Vauro cattivissimo: rogo a Milano carbonizzato ragazzino romeno, manco il tempo di prendergli le impronte. Questo dice Vauro. E abbiamo poi l'Unità, che invece valorizza la svolta per l'Italia, oggi l'accordo. E ancora sui diritti umani, il Vaticano: sugli immigrati traditi i diritti umani, un nuovo naufragio di disperati avvenuto nel canale di Sicilia. E mentre il mare attorno a Malta inizia a restituire i corpi senza vita di decine di immigrazioni, l'arcivescovo Agostino Marchetto, abbiamo già letto, segretario del Pontificio Consiglio dei Migranti, attacca il governo italiano e la sua politica sugli stranieri. Questo sì, è già stato, io vi ho già letto questa notizia dal quotidiano L'Avvenire, che è quello, come vi dicevo, che ve l'ho letto in apertura, che è quello che ha dato più risalto alla tragedia, all'ennesima tragedia del mare. E poi c'è anche una vignetta Staino che dice: siamo gli unici in Europa a non voler rispettare le quote di energia rinnovabile. In Iraq saremo un po' titubanti come alleati di Bush, ma con l'inquinamento ci riscattiamo. Ecco questo. E poi una foto carina, anche interessante: Berlino, ecco l'arte che Hitler rubò agli ebrei. Una mostra al museo ebraico della capitale tedesca documenta il viaggio di quadri, porcellane e mobili che il regime nazista saccheggiò. Beni trafugati che sono un pezzo di storia, frammenti di memoria e affetti. Adesso mi pare che, dal segnale che vedo dalla regia, il mio tempo è scaduto, quindi io vi ricordo che c'è il microfono aperto dalle 8.30 alle 9, potete telefonare anche un po' prima delle 8.30 per prenotarvi all'800 24 00 24. A dopo.